qui avete un amico, un fratello, un figliolo, voi, papà, che vuole aiutarvi ad essere felici. Noi dobbiamo essere nella gioia, straripar di gioia, nonostante le spine, i ciottoli della strada, le traversie della vita, nonostante gli imprevisti, le incognite, siamo nelle mani di Dio, salute o malattia, tempo bello o tempo brutto, bonaccia o tempesta, tormenta o tranquillità, tutto è nelle mani di Dio. Diamogli ragione e vedrete il mistero, il miracolo di godere anche soffrendo. Vi è mai capitato di godere soffrendo? È il mistero del cristianesimo. Lui in croce tanto soffriva quanto godeva. Anzi, io oso dire, più godeva. Perché noi non li assomigliamo? Perché non diamo ragione? Lui dà ragione al Padre. Dà ragione al Padre che l'ha mandato sulla terra per farci tutti suoi figli, figli nel Figlio, eredi, coeredi con Lui dell'eterno paradiso di Dio nostro Creatore, Signore e Padre. Quando impareremo a stare al mondo? Gesù Cristo è venuto ad insegnarci. L'abbiamo detto, ce l'ha insegnato Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sui sentieri della terra, sui miei passi. Sia fatta la tua volontà, diamo ragione al Signore, che non ci pentiremo mai d'esserci fidati di Lui. Nelle ore felici e nelle ore tristi, che bello, il cuore di Gesù è tutto dolore e tutta gioia. E il cuore del cristiano deve conoscere questo connubio misterioso. Tanta croce, quanta gioia, tanta sofferenza, tanta gioia. Per cui il cristiano è un invincibile. Il dolore non lo può sconfiggere il cristiano, perché simultaneamente al dolore il cristiano dispone di una riserva stupenda, superiore al dolore, la riserva della gioia. Ripeto così, scusate, non è che da quella mattina il chirurgo mi avesse esonerato da quella medicatura che era una tortura. No, tutte le mattine, ancora. Ma non era più come prima. Come mai questo cambiamento? Come mai? Invece che gridare, da quando mi sono convinto e deciso di dar ragione al Signore. E non gli ho chiesto che mi spiegasse perché, Signore, questa fistola, questa noia, questa tortura, perché? Ma no, non stiamo lì a perdere tempo, perché, per come, per quando, per quanto. Diamo ragione al Signore. Signore, mi fido. Come cambierebbe la nostra vita se arrivassimo a questo punto qui? Quando un alpinista va sui monti per forza, oh, che tormento, ma vacci volentieri, canterella, e sentirai che il sentiero è ancora ripido, ma tu lo percorri quasi danzando. Vedi, cos'è cambiata? La montagna si è appiattita? Il sentiero si è asfaltato? No! Sei tu che hai cambiato dentro di te. Finalmente hai dato ragione al Signore. Il sentiero è ancora arduo e tu lo percorri come uno che danza. Questo è il mistero della vita cristiana. Noi siamo figli della Chiesa, che ci ha insegnato anche stamattina a cantare. Maestra di canto la Chiesa. Sempre, anche quando la Chiesa è nelle catacombe, la Chiesa canta. Santa Cecilia, martire, insegnava a cantare ai condannati a morte. Santa Cecilia, Santo Tarcisio, San Lorenzo, Santo Stefano, nessun martire è morto imbronciato, avvilito, coi pugni tesi, no, dolcemente a Dio cantando. La Chiesa è madre e maestra di canto, perché sa che siamo servi di Dio e figli di Dio, per i quali Dio ha contato anche i capelli, i passi, i battiti del cuore.